che ha detto la vostra. C'era Pio Draco, dice osso, osso. Allora, tutti quelli che avete nominato li conosco, con un me era amico. Ho visto tutta la stazione del padre che ce l'aveva sui Mansardi. E poi faceva il camionista il padre, e c'aveva il camion. E tu, ehi, Bruno, e tu Prascopia, conosci te lei? A chi? Prascopia. Ah, boh, non mi ricordo, non mi ricordo più, non mi ricordo più. Sì, ma io non mi ricordo tanto, ma tu vai, ho già passato il contatto. Ci avrà ricordato. Cosa? Istria, sì, da me se non la ricordo. Non mi sarà già fulvi, ha sbagliato. A 180, 200, 80, dopo c'è dove, alle 4 di Manzano. Come si dà l'aggio? Lancia Zagato Rossa, si è bevuto un boccione di vino e caduto le scale, domani detto, tu non ne hai vino per ubriacarmi, ma fini mentira mai, c'era la fila, però non è fuma, era me. La fila ho visto dei cimi che manco immaginavo che andavo a trovarsi quella lì, ti giuro, guarda Bru, quando mi sono preso mi sono parlato di Brazzi, che era tanto serio, baracchino, dico solo che giusto un baracchino, dico altro. Tu hai detto che ci sei stato 2 giorni a casa sua. No, notte di e allora io sono andato una volta a casa sua, ma ero andato per un altro motivo, che la figlia, Susi, si era messa, se si ricordi, con quel ragazzo che abitava, figlio di quel pasticcere che c'era via Roselli. Che era un ragazzo poveraccio che fa problemi, un carrozzino che fa, guardami, mi buia la vita che la figlia se la butta un dito. Allora si chiamava per andare a consigliare la figlia, ragazzo, a chi voleva ragazzo, passavamo là un dito, era proprio un ibriacone. Cos'è che hai detto Gianni? Io non so niente. Sì, la figlia si è messa con Danilo, quello di Piana, ce lo sappiamo. E via Biasi numero 7 a Piano Terra, aiutai. Cos'è che sono 2 giorni? Lei sono stato una settimana da Istria. E poi, vedete, un ragazzo io, cosa avevo? 16 anni, 17, ragazzi. Ehi, vabbè, lasciamo fuori. Break. Avanti. Buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao. Mamma, buonasera, mi sono appena entrato. Mi sto facendo a mangiare. Il signorino c'ha la febbre, c'ha. Adesso gli ho dato la medicina, è stato un meglio. Beh, periodo è alto, i bambini poi hanno meno sistema immunitario, quindi se la mi dai subito l'asilo. KK, chi c'è in frequenza? Di c'è Antonio. Passa Antonio. C'è anche Bruno, Bruno avanti. Lugano e Mitti, buon lavoro cicato. Oggi non è valido. Mi sto mettendo un movimento, che non sto scendendo. Oggi c'è il revival, no? Antonio, stavamo ricordando la storia della 27. Ma altri tempi era. Tempi belli. E belli, insomma. Come erano belli erano anche brutti. Erano come di Giaramene, di Ghisio, di Lasso, portanti. Poi già ce n'era di crema, là. Voglio andare dove anche uno che pigliava a ciappa a capo, già me ne ricordo quegli anni. E con su bastone non siamo divertiti. Ah, su bastone, no, non l'hanno mai trovato quello lì, dice che aveva 500. E lascia perdere, gli è stato trovato, è stato anche pieno. Tanto che si è tirato avanti così perché ci volevamo divertire. Però alla fine, proprio quando lui è sparito, sapeva chi è. Noi invece siamo andati a casa di Don Diego perché stava sempre dicendo parolacce, anziché già ci avevano i carabinieri. Gente di Tarragona, cosa vuoi la ruota? Gente di Tarragona, niente, si comporta già così. Aspetta, scusate, sono al telefono. Via. E comunque ce n'era un bel di gente. Allora era pieno. La mattina c'erano tutte le donne che si trovavano, tutte le mogli dei cibi. La notte c'erano quelle sconsolate che i mariti lavoravano e noi dovevamo faticare per andare a trovare. Poi c'era Luna, te la ricordi? Sono ricordo domani, so. La luna te la ricordi, a Graziella? Chi era? Che stava che abitava più su di casa mia, non so come si chiama, di Graziella era stato un casino, la moglie di Gianfranco. La moglie di Gianfranco Mattivo. Mamma mia! Buongiorno, ci troviamo di persona, ti dico cosa cazzo era successo, un casino, una madonna, non credo. Sì, c'è una voce in giro, strana. Poi avevamo formato un po' di soccorso con loro, Ma non abbiamo fatto, cioè, formato un po' di soccorso, e l'altro giorno io stavo frequentando con loro. E poi vabbè, l'abbiamo perso, perché se tu moduli la notte con una persona, con una donna, ci stai tanto tempo, per tante ore, alla fine quella è la tua notte. E vabbè, poi ti racconto che cosa mi era venuta all'orecchio questa. E io lasciamo perdere, e mi ha detto che non lo voglio dire. Vabbè, tempi passati, qui c'è la luce del mattino, con Intrepido. Certo, la luce era anche Intrepido, sì. Lei era molto, mi stava parlando, arrivava molto forte, era una persona molto in gamba. Ciao a tutti da luce. E Intrepido era amico di Tonino. Come era il telefono? Andavamo nei paesi, a Briscolone, avevo ricordato. Sì, quello di Maris. Ehi, andavamo la notte a casa sua, cazzo, ne tornavamo sempre ubriachi, cazzo. A Briscolone. Ehi, con Briscolone c'erano le gare la notte, non te lo ricordi che facevano le gare? E lui usava il giambo, si è sempre negato, e quello come Penny, che si è sempre negato perché non mi aveva inserito, cazzo. Aveva il giambo sempre inserito, tutta la vita, cazzo, non hai voluto dire la verità, cazzo. Io già mai visto, cazzo, l'ho avuto a casa di mamma, con il quinto e il microfono, parte più due da palco. Adesso mi telefono, ho fatto le sciuppe in giallo, lì cazzo a base mi sanguosa, non riesce più a farmi dare. Ho visto da poco, ho fatto le sciuppe qualche anno fa. Anche io sto scendendo, sono già quasi arrivato a casa, sono venuto da pranzo un sacco. E va bene, dai. Ciao Bruno, ciao, ci sentiamo, dai. Alle prossime, Antonio. Salutoni Bruno, ci sentiamo alle prossime. E salute a tutti, a risentirci e anche a Torre, non è, so se c'è ancora. Salutoni per queste cose. Sentiamo che c'è gente, non ha rampa, la coppa, i garami, vediamo che c'è un po'. Sentiamo la tua sera, ciao ciao. Ciao Bruno, Torre ci sei. Erano tempi belli e brutti erano, perché la gente magari si divertiva, c'era tranquilla e poi verranno che c'è il ragone, che non volevano buzzurri, che non volevano piste. Purtroppo era così, era. Hai ragione, non potevano vedere le persone quando erano tranquille, gli rompevano le palle con le portanti, qualcosa, i pacalizzai. Torino, ci sei? E io sto per andare, dai, vado a portare il caliccio adesso. Tu sei troppo tardi, detto, se c'è quel bambino così hai ragione anche tu. Però è tardi per me. Fra poco, via, altri 10 minuti e poi me ne vado. Scappa. Non è il telecomando perché l'ha tirato a terra. Perché di chi è un terremoto, non è un puttino. Quando gira a mono è terribile, Vuol dire se è così a zero, vuol dire che gli sta passando la febbre, se no era stato buccio. Ammi gnammi! È una scena, guarda, no! Da che ora ci siete? Io ho fatto già da mangiare, avevo già mangiato, chi che non ha mangiato nulla? Se ho fatto il riso non ha mangiato, e così mi sono fatto un piatto di carbonara, me la sono fatta da solo. Sto imparando a farmi le porzioni da solo. A chi dice un po' di voce, no, non è lui. E lui dice non li piace, io non li piace. È un sciriato che non ti dico, ce l'ho dovuto buttare. Ma vaffanculo, vabbè che è tutto quanto buriato, però. Allora, questa febbre qua fa nausea. Ha fatto anche a me, sono stato 3 giorni che non mangiavo io. nausea, ogni cosa che mangiavo mi veniva da vomitare. Ma perché magari mi non caccio? Noia. Il lungaggio da voi non so cosa è un lungaggio, non siamo mai contenti. Ah, io sto benissimo. Ho caldo? Sì, io sto bene, no. Non ho problemi. Magliettina a corda e via. Ah, io non voglio se tropicale starei bene, non avrei neanche dolore. Io ho buttate e ho petto nudo in casa. Io sono un pantaloncino e a petto nudo. Adesso magliettina a corda, ma sto molto meglio perché sono abituato, capito? Io i pantaloncini li metto a portata di mano perché se suona il campanello me li filo subito, però sono meglio buttarmi, perché anche i pantaloncini mi danno fastidio col caldo. No, io non lo sopporto il caldo, dico la verità, mi dà fastidio proprio, mi piglia tachicardia, il caldo a me mi ammazza. No, io sto meglio, la verità, sto molto, molto più bene, sto molto bene. Come cura, una passata di ghiaccio, sto proprio bene come persona, ma se vuoi, no, non sto benissimo, proprio zero. Come mai? Perché c'è troppo freddo, no, non lo sopporto molto il freddo. Basta coprirsi col freddo, io mi muovo un giubbotto grosso, pantaloni più pesanti, cosa fai? Il freddo non è tipo coprire, un gallo è che ti crema, a volte anche quando si appetto nudo sudo. Io sto bene col caldo. Eccolo qua, la bua, ma se ti dico di non toccare le cose. Cosa ti hai fatto la bua, Gabriella? che babbo macco che va? Ti fai male, si vuole arrendere, te ne immaginerci, Gabriella? Mia baby. Avanti. Ho messo un volo e basta come fratello al telefono. Quindi cosa è successo? Non lo so. Non ho capito. No. Di cosa stavate parlando? Allora, stavamo parlando di Itria, di quello dall'altro, e poi siamo andati a finire con Intrepido. E ho detto, ma Intrepido era l'amico di Torino. Amico tuo è come luce al casino. Ma perché abbiamo due fatte? No, è attacco, conosciuto l'hai. A chi? Attacco. Mi sembra che il nominativo l'ho sentito, ma di persona no. A Intrepido l'ho conosciuto di persona, che ci aveva 128, con la guida tra parte. Dacco modulava esattamente la strada vicino alla Madriga e aveva l'antenna su un coso mulino a vento, era roba 20 metri alto. Certo, su un mulino a vento, come ti ha fatto a mulino? E tipo scaletta ha fatto e poi quel fulmine l'ha preso in pieno l'antenna, ha percorso tutto il cavo RG8 e l'ha approcciato mezzo salotto. E poi dice che, no, che il fulmine non fa nulla neanche, che cazzo sapranno cosa? Questi fulmini se ti mi dai l'antenna te lo disintegra e ti fa entrare anche la corrente in casa. Sì, come docente temporale io stacco il piede che c'ho qui, lo metto in terra, sono tranquillo. Se posso glielo cavo, già ne ho di ricambio la muglia, ho la RG213, ho 24 metri la muglia. Quindi adesso quello la RG8, adesso quello grigio, famoso già. Se si brucia via luce, ma non mi brucia né baracchino né niente, e purtroppo è un campo che la corrente cammina e è un medio in fosso, capita. Ma può entrare anche dalla luce elettrica, dalla corrente elettrica può entrare. Ali Punti aveva fatto un casino, aveva preso proprio dentro la cabina elettrica e a pigliare il migliato fuoco di un po' di casa. Ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Ho schiacciato, ho detto ciao. Gabriele, come stai? Ah, cosa c'è Gabriele? Vieni amore, vieni. Non tirarlo a terra, eh. Vieni, vieni. Ecco qua. In oreddu, E Bruno non c'è più. Già. No, Bruno è andato via, salutato, cioè salutarti quando entrò. È andato via. E certo sono andato via anche io perché fra poco devo portare il cane. E va. Anche perché per freddo. Non è che puoi starci tanto. C'ho gli occhi che mi stanno bruciando lì, bruciando di brutto. Vabbè, io già cenato, quindi mi guardo un po' in televisione, proprio che c'è il telegiornale, anche io chiudo questo passaggio. Ed è profitto, profitto. E dentro c'è un caldo, c'è il quello acceso, ragazzi. E vabbè. Io potevo 124, prendo due, ne ho. A dare un'aria calda per da buttare, ma vabbè. Siccome sono ancora vestito come sempre, quindi manco messo la tutina e fai, comunque. Va bene, dai. Sentiamo domani già. Ciao, sta bene, buona cena con tutto. Ciao Antonio, bacione Gabriele e Ventura Scottoni, ci siete con salutati. Ci sentiamo a domani. Ciao a tutti, ripeti. Ciao, ciao Torino, chiudo anche io, dai, vi sono tutti cordialmente, grazie per questo volta. Ci sentiamo magari con più calma. Potete in Dio ritardo. Ok, dai, anche io adesso faccio bianco, mi visto. Calmati! Saluta, ciao, saluta. Ciao. Ok, dai, saluto anche io, ciao, ciao. Ciao Gabriele, ciao, bacione, ciao. Ciao Gabriele, ciao a tutti.